Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Eccoci qua. Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati. Siamo in diretta sui 103.100 in modulazione di frequenza. Chi vi parla ovviamente è Franco Paoletti, al di là del vetro il Bolognese Volante che ha dato il via alle danze, come si suol dire. È una giornata un po' così freddolina, però insomma ci scaldiamo con la buona musica. Oggi è la 43esima puntata di appunto Easy Pop, musica indipendente per menti libere. Easy Pop appunto, domenica 6 novembre. Buon pomeriggio. 6 novembre? Oggi no, ho sbagliato, 13 novembre, qui non mi hanno aggiornato, non è che capito. Mi avete dato. Però anche lei, ecco, si renda conto, c'è il calendario davanti. Esatto, ma certo, ma mi hanno scritto sbagliato, lei l'ha fatto, sì. La redazione. Io la induco in errore, va bene. La redazione ha fatto apposta, sono convinto. Domenica 13 novembre, impossibile, sai, insomma, ormai abbiamo già dato. E allora, dicevamo, una puntata oggi ricca di nuove uscite discografiche. Stavo anche guardando alle prossime uscite dicembrine, quindi dischi natalizi, quant'altro, e devo dire che ci sono anche delle cose interessanti, delle belle scoperte, ma di questo magari ne parleremo nelle prossime puntate. Discorrendo a questo punto invece, ben arrivati nel nostro salotto. Dicevo, sono tantissime le nuove uscite discografiche, tra le tante quelle di Antonio Maggio, cantautore salentino con all'attivo oltre 200 concerti in Italia, all'estero, e poi un festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano Mi servirebbe sapere, che qualcuno si ricorderà ancora. Poi ebbe anche il premio Sala Stampa di Lucio Dalla, il premio Emanuele Luzzatti, oltre che aver vinto anche il premio AFI. È anche un disco d'oro per questo disco, insomma, mi piacerebbe sapere, lo ricordo con molta simpatia. Bene, è uscito il nuovo singolo dal titolo Stati d'animo, andiamo ad ascoltare questa bella voce, Antonio Maggio con noi. Partirò, credo i primi di settembre, e tornerò, forse a metà dicembre, dipende. Quest'anno quando arriverà il Natale. Francesca va, forse un po' troppo veloce. La verità, che pensa solo alle sue cose, le rose. Stasera io le porterò a mia nonna. Lei mi dirà che non comprenderò Parico, busto e dubbi su bottina, negli attestati di autostima presi all'università. E io l'amavo di nascosto perché non piacevo al padre, che la musica la odiava, forse odiava solo me. Ma noi una volta siamo stati d'animo e d'accordo. E io ho deciso che andrò via senza patemi, credo i primi di settembre. E tornerò, forse in anticipo a novembre, dipende. Quando festeggerai il tuo compleanno. Che cosa fai stasera? Ti prego andiamo a pascolare. Che non mi sopporto più, ho terminato anche le stelle da contare, e pianterò un geranio nel mio cuore. Lei mi dirà che non comprenderò Parigi, Ho i suoi dubbi su Bob Dylan, negli attestati di biostima presi all'università. E io l'amavo di nascosto perché non piacevo al padre, che la musica la odiavo, forse odiava solo me. Ma noi una volta siamo stati d'animo e d'accordo, stati d'animo e d'accordo. Antonio Maggio, stati d'animo e d'accordo. Ridi e scherza, lui d'accordo. È già arrivato. D'accordo, sì, d'accordo. È già giunto, se non sbaglio, al terzo album. Questo è il suo singolo per quest'inverno. Devo dire, è molto molto carino. Lui anche ha ricevuto diversi premi, quindi non solo il premio Lucio Dalla per il Festival di Sanremo, eccetera, eccetera, ma anche altri premi. Tra cui stavo leggendo, insomma, diverse collaborazioni e altri premi, diciamo, molto interessanti. Quindi, che dire, che sicuramente è una bella voce, una bella realtà musicale, però come sempre, insomma, se uno non appare in TV magari non esiste, in realtà poi si lavora lo stesso. Infatti lui ha lavorato soprattutto all'estero, in Russia, Lettonia, Belgio e addirittura in Albania, quindi insomma la bella musica italiana viene così esportata prima di essere consumata in Italia. Invece ancora una bella voce, quella di Razza Crasta, che ritorna al la musica con questo singolo di cui avevamo già parlato e già ascoltato, sempre qui sui 103 e 100 modulazioni di frequenza. Ne avevamo già parlato del graditissimo ritorno di Razza Crasta con questo pezzo stranissimo, straordinario, si intitola Sagittario. Ce l'ascoltiamo? Finito questi tardi, non so più cosa darti, vogliono solo farmi, non so cosa dirti, se ho finito tutti i miei tardi e non so più sì cosa darti, vogliono solo farti, non so cosa dirti, e che in qualche modo poi ci si organizza, non ho quest'estate, non andiamo a Nizza, se sto a casa in mezzo a st'immondizia, tu fingi che siano diamanti e sei, se qualche sogno non si concretizza, inizia a parlare i nomi in questa lista, parto dal fondo ed arriviamo in testa, come fossimo diamanti e sì, e poi niente è semplice, anche se sembra non lo è, tutti la fanno facile, ma frate non è mai come dici te, non è presa che presenta il conto, e ora mi cerchi ma non rispondo, e non di certo perché mi nascondo, sì tu sei sincera ma mai fino in fondo, ho finito tutti i miei dardi, e non so più sì cosa darti, vogliono solo farti, non so cosa dirti, ho finito tutti i miei tardi e non so più sì cosa darti, vogliono solo farti, non so cosa dirti, resta con me, rimani, non ho amato mani sti ricami, così con quegli occhiali strani, dai dirmi come ti chiami, non ero neanche tanto piani, come nella mezza sti divani, adesso che ne senti anche i richiami, urlando come cani, ma non era la luna nel pozzo, soltanto il riflesso nell'acqua di un cesso, dimmi un po' che ne pensi adesso, ti piace, mi piace lo stesso, è tutto quello che ho dentro, crude come l'ortica, dice che poi dipende da come prendo la vita, ma sono solo momenti, sabbia tra queste dita, solo schiaccia ti accendi. Razza Crasta a Easy Pop con Sagittario. Come lo dice bene lei, Razza Crasta, questo cric crack, che lei come, no, lo che dice, rimane, scusi, l'ho capito. Razza Crasta con Sagittario, proprio un diciamo proprio da speaker. Ha già preso, no, il cioccolatino? Poi, no, non ancora. Ah, ecco, perché guardi che vengo lì che glieli ricucisco tutti, eh. No, nel senso che comunque Razza Crasta va proprio detta ufficialmente, vede, molto solo gutturale. Comunque finalmente è uscito il suo nuovo singolo, che è anteprima di un progetto cui sta lavorando. Siamo curiosi appunto di vedere vedere l'evoluzione di questo rapper, che è dagli anni 90 che insomma scrive canzoni, fa degli album e grandi collaborazioni soprattutto sia con band sia con anche insomma altri personaggi, altri tra i quali voglio ricordare tra gli artisti anche per esempio le sorelle che tornano insieme, lei sa a cui mi riferisco. Ma saranno Chiara lì e... Paola e Chiara, Chiara. Certo, di cui si vocifera un ritorno. Bene. Allora complimenti a Razza Crasta, questa voce molto particolare, no, del rap, che mette un rap melodico però anche con un rap bello cattivo, no? Bello ma cattivo. Adesso nei invece testi, andiamo intendo. Con una fata, una poetessa. Esatto, e da un personaggio aggressivo come Razza Crasta passiamo aggressive. Invece aggressive fairy tale. Esatto, andiamo così a esplorare il mondo incantato di Chiara Ragnini, che ritorna con La casa sul mare. Una casa sul mare per stare abbracciati guardando le onde, osservando nel volo i gabbiani ed il loro planare elegante. È una danza efficace temuta, quella fra la preda ed il suo cacciatore. Un incontro nel bene e nel male, senza fare rumore. Un pezzetto di terra per curare i miei sogni e le tue aspettative, calpestando le foglie appassite per far spazio ad un nuovo raccolto. Ci si sporca le mani e le unghie per riuscire a donare il meglio di sé. È fatica che ripaga sempre, l'ho imparato da me. Io ti faccio una promessa, avrò cura di te, ma tu fammi una carezza per fidarti di me. Conosco questa strada, di piogge temporali che fanno spazio al sole. Una casa sul mare, rifugio per i tempi più duri, che profuma di buono, di vestiti puliti e di frutti maturi. E beh, di lei abbiamo scoperto un po' di più grazie ai così ai spin-off di Easy Pop, ovvero sia questi incontri. Sono gli spin-off, Paoletti. Ma sì, lo spin-off, diciamo, di si dice così, parli, vero? Come mangia, Paoletti? Beh, ci sono queste interviste. Sono le interviste pubblicate sul web in Radio Città Fujiko. Come lo spiega bene lei, mi fa lei sentire proprio delle parole, gli ostrogoti. No, non si dice così. Praticamente sul web abbiamo delle interviste di approfondimento di vari personaggi, tra i tanti Chiara Ragnini, insomma, si è prestata a questa lunga chiacchierata molto amicale appunto nel nostro salotto musicale, quindi ci ha raccontato un po' di questo nuovo singolo, appunto La casa sul mare, e poi abbiamo esplorato anche i precedenti album tipo Il giardino di rose del 2011 e il suo grande exploit, insomma il suo album molto folk, il primo, e poi insomma via via di seguito. E abbiamo scoperto che durante il lockdown che cosa fanno gli artisti? Semplicemente si cantano, rifanno le loro cose, insomma le loro canzoni, e poi fanno anche le cover, per esempio, e poi cosa fanno? Si autoregistrano, e da lì insomma è uscito questo bellissimo album, appunto, che si chiamava Home Play Volume 1, le canzoni buone del focolare di casa. Quindi vede come Bucco melancolica, la nostra Chiara Ragnini. In attesa del nuovo album, insomma, ascoltiamo questo che è un'anteprima che va assaporata soprattutto nel testo, e quindi complimenti. Oggi questo singolo è molto più pop rispetto al passato di Chiara, ma ci ha anche spiegato il perché. Se volete approfondire, ovviamente ci andate, sono su radiocittafugico.it, musica, e cercate l'intervista a Chiara Ragnini di Poletti. Ma non c'è solo quella di Chiara Ragnini, per esempio. Ce ne sono tante altre, noi invitiamo gli ascoltatori e ascoltatrici ad andarle a esplorare sul web. Esatto, a voi sta, a voi questa mossa. Allora, in tema di cantautorato viene a trovarci anche Del Monte, si chiama proprio così il personaggio, è appena uscito questo singolo, è proprio fresco fresco, appena sfornato, come si suol dire, si intitola Non è niente. Del Monte. Stringimi un po' di più e tutto sembra normale. Ti dico ciò, prendi un caffè, come fossi stata sempre lì. Troppi gli attimi che non ho mai saputo prendermi, e sei felice adesso, sei felice adesso, e mi sento già meglio, ma se ci sei di più, come fossi una festa nel mio letto, senza di te non è lo stesso. Allora vieni via con me, che amare non è niente se lo dici solamente, e forse già lo sai, arriveremo un giorno a non chiederci più dei guai, di giungle, sabbie, mobili, dei chilometri che non ho mai fatto per venirti incontro. Se sei felice adesso, non so più farne a meno, e mi sento già meglio, ma se ci sei di più, come fossi una festa nel mio letto, senza di te non è lo stesso. Allora vieni via con me, che amare non è niente se lo dici solamente. Monte, non è niente, ci parli di questo personaggio? Beh, Paoletti. Sì, Del Monte tutto attaccato, è come l'uomo del monte. No, va bene, non faccia pubblicità così, Paoletti, esatto. Non faccia Del Monte pubblicità. Quindi è arrivato finalmente il suo nuovo singolo, che è praticamente diciamo segue, no, il precedente Niente Panico, ed è praticamente a un buon livello, perché insomma il precedente ha avuto dei buoni riscontri e speriamo che anche questo possa dare i suoi frutti. Non è niente, praticamente è un suo progetto che poi farà seguire un album. È una confessione, insomma, una sana dichiarazione di dipendenza, insomma, da un amore, e di più non è appunto detto. Si chiama Gianluca Gabrielli in realtà ed è romano, nasce con il sole in Vergine e la luna in Toro, per tutte le ragazze che si occupano, per esempio, tutte di oroscopo. Si sa mai. Ah, mamma mia. Lui è orgogliosamente pop, si dichiara. In effetti questo è un brano molto suonarlo. Pop, e non possiamo non suonarlo. Solo per questa bravo, descrizione. Bravo. Perfetto, e a questo punto diamo spazio anche a Santo Ianni, è popolare il suo nuovo singolo. Partecipare a un festival cantautorale con una line-up sensazionale da pubblicizzare, avere così tanta gente che canta le mie parole da non doverle per forza memorizzare. E invece ho così tante cose da dire che non le riesco a raccontare, fino al punto di dubitare. Come un sacerdote che si inizia a drogare e non se lo sa perdonare. Tu fammi capire se ti vendo il mio dolore che resta. Partecipare insieme a te al funerale dell'orizzonte che muore al mare e capire come fanno i tuoni ad arrivare puntuali sempre due semitoni sopra la paura. E invece resto in silenzio e mi sento svanire. L'amore, l'amore, l'amore, l'amore, le mimose d'aprile. E se l'arte fosse un letto ti ho già persa appena sveglio. Non ricordo mai i sogni che faccio. Capire se ti vendo il mio dolore che resta. E so che maledici i poeti da tastiera che raccontare l'amore. Santo Ianni popolare. Allora c'è da fare una rettifica su questo singolo, perché in realtà è Santo Ianni, c'è cioè il featuring ovviamente di Cargo, e adesso non so se è obiettivamente il singolo è di Cargo featuring Santo Ianni o viceversa, ma del resto io ho visto Santo Ianni e zac, mi sono fiondato su Santo Ianni e magari mi sono anche sbagliato. Cargo e Santo Ianni insieme, ma parliamo di questi due personaggi, infatti si sentivano, no, due voci differenti. Sì. Allora, il risultato di una collaborazione, di un'amicizia, questo singolo appunto popolare che è poi è nato proprio tra appunto l'asse Roma Milano, e quindi insomma è anche un po' interessante, no, il metodo di lavoro. Però per quanto riguarda questi due personaggi, vado a ricordarvi che Santo Ianni già lo conosciamo, insomma ha già inciso dei singoli insomma importanti con il suo produttore Molla, e anche lui l'avevamo ascoltato. E dall'altra parte invece c'è Cargo, che è Valerio Giovannini, in arte Cargo, cantautore e producer romano. E per quanti guardano appunto il concerto del 1° maggio, c'è da dire che lo abbiamo proprio visto quale vincitore in questo contesto, 1° maggio Next Generation 2021 con Viole. Questo successo che poi è stato poi portato avanti soprattutto nelle classifiche indie, e quindi questo connubio appunto tra Santo Ianni e Cargo ci sembrava giusto sottolinearlo. Questo è il loro singolo appunto popolare. Bene, andiamo, adesso pagina. Lancio io Giovanni Santese e la sua Questo Amore, dopo Paoletti ce ne parla. Questo amore non è un bacio addosso alla notte. Questo amore non è Ulisse che torna e fa botte. Non è Dante che sposa Beatrice. Né un finale perfetto, né un finale infelice. Questo amore non è una ferita da taglio. Bellissimo sbaglio, oh oh, questo amore non è l'ultimo abbraccio in un naufragio dentro un mare di ghiaccio, oh, è qualche cosa di più, è qualche cosa di più, è qualche cosa di più. Cosa di più. questo amore non è un pugnale, un veleno, un finale sereno. Oh, oh, questo amore non è un'avventura, non c'è traccia neanche in letteratura, ma è qualche cosa di più, è qualche cosa di più, è qualche cosa di più, è qualche cosa di più, è tempo, non ce n'è mai per dirsi amore, lo sai. Molto bene, quindi abbiamo ascoltato anche Giovanni Santese, cantautore italiano, il primo suo album ad esordio è prodotto da Tachetto Gohara, sarà pubblicato proprio a fine 2022 per Irma Records, quindi un'etichetta importante per questo cantautore che si era giunto anche finalista al Club Tenco come miglior opera prima con un singolo, se non sbaglio era Star Bene, no, era proprio un album, però si faceva chiamare in un altro modo. Quindi complimenti a Giovanni Santese che uscirà proprio con questo album, dove praticamente potremo esplorare i suoi mondi musicali. Detto ciò, siamo ultimo, ahimè, brano, siamo già di corsa. Paoletti, di corsa, annuncio, certo. Mike Lowe e la sua One Step. Dopo Paoletti ci illustra di che cosa si tratta. In my mind creating atmosphere, leaving the impossible. Friends just shake their head, standing for what I believe, though it's not really mainstream. Loving my heart and soul, sometimes I wanna scream. One step, one step, one step at a time, just one step, one step will be just fine, and just fine. Look into my eyes, baby, see my soul. This time, baby, please don't withdraw. All I wanted was for you to love my heart, but I let the pain sink in, wanting to be close to you. Dismissed, I'm too hot for you. Get up, do this, we gotta. We beat our march and drown. One step, one step, one step at a time. We'll be just one step. Ma che pronuncia, che bravo questo artista Mike Lowe, un artista di grande esperienza, al suo terzo singolo, preceduto da due successi come era Lonely o Can You Feel the Beat, che hanno ricevuto ottimi riscontri e valutazioni in tutta Europa con molti milioni di streaming e insomma soprattutto anche di vendite. Precedentemente era una sorta di turnista che insomma sì, cantava, ma appunto portava avanti la sua musica, e questo è il progetto che uscirà proprio a breve, proprio un album, e sta già preparando il suo tour 2023 con una band. Complimenti a lui, una bella voce, sicuramente un bel personaggio, vi invito ad andare a vedere i suoi profili, e a questo punto regia, che c'è, mi fa un brutto pubblicità. Segno pubblicità, rientriamo fra pochissimo. Easy Pop.

Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Siamo già in onda, che velocità, certo. Veramente io stavo scartabellando qui i dischi, spulciando nei... Sì, probabilmente sono lento, non lo so, ma sento sento l'inverno avanzare, quindi insomma inverno? Vado in letargo anch'io qui blando. Allora, per aprire questa seconda parte di Easy Pop insieme a Easy Pop, quindi insieme a noi di Easy Pop della redazione e di Radio Città Fujiko, tre volte Abbiamo Francesco Faggi, Mentalmente Instabile, il suo singolo, di un personaggio che insomma già bazzica nel mondo indie, nel senso che già si è fatto conoscere anche addirittura in quei talent che si vedono un po' qui, un po' là, insomma, in questi talent schizofrenici che poi sono, ma sì, nei network, insomma, ecco. E comunque già conosciuto nell'ambito indie e non solo, perché ha avuto diverse segnalazioni. Lui suona anche il jazz, però è pop in questo caso. Ci presenta questo singolo, appunto, dicevo, Mentalmente Instabile, che è praticamente il singolo che apre anche un album, un progetto davvero interessante. Francesco Faggi con noi. Ho già mal di testa, un'ora che parli. Lì nel tuo cervello devono essere in tanti. Componi una frase e poi dici il contrario. Ogni direzione ti sembra uno sbaglio. C'è solo un dettaglio, io sono qui. Non hai mai capito se mi ami davvero. Tutto questo tempo, ma ora io mi fido zero. Ci penso e ci ripenso un'altra volta ancora. La voglia di star bene, sai, un po' mi sfiora. Ma chi me lo fa fare se ci sto solo male? Che senso ha? Che cosa mi rimane se ascolto la tua confusione? Finirà che poi anch'io mi sento mentalmente instabile. Mentalmente instabile. Ho già mal di testa, due ore che parli, senza neanche guardarmi, senza neanche ascoltarti. Che bello giocare con i sentimenti degli altri. Afferrato il concetto, neanche i tuoi occhi mi fanno più effetto adesso. C'è solo un dettaglio, sono ancora qui. Non hai mai capito se mi ami davvero. Tutto questo tempo, ma mica sono scemo. Se penso e ci ripenso un'altra volta ancora. La voglia di star bene, sai, un po' mi sfiora. Ma chi me lo fa fare se ci sto solo male? Che senso ha? Che cosa mi rimane se ascolto la tua confusione? Finirà che poi anch'io mi sento mentalmente instabile. Mentalmente instabile. Mentalmente instabile. Mentalmente instabile. Paparapapa, che bella anche questa digressione, questa così, questa solo, mi piace. Francesco Faggi, Mentalmente Instabile, tra l'altro ha un curriculum interessante questo artista, che insomma sa suonare veramente, anche diplomato per quanto riguarda il pianoforte, se non sbaglio. E questo è praticamente il frutto del suo EP che è uscito in questi giorni, quindi complimenti a lui e aspettiamo insomma altri singoli, mi raccomando. E a questo punto voglio sentire cosa dice. Come si fa a presentare una cosa così? Io dico solo, vabbè, l'artista, allora, è un artista che riconoscerete subito. È scritto il testo da lei non mi può aiutare, no. Prodotto da ma non faccio questi quiz che non so rispondere. No, vabbè, lo diciamo dopo. Ascoltiamo. Guarda, è terribile, sì. Ascoltiamo. Mi fa proprio queste domande tra bocca. Guardarsi i piedi che crescono, le dita si allungano, le unghie sfondano le scarpe. E le pupille fanno uno strano gioco. e il naso butta fuoco. L'alito diventa un laser che fa paglia dei muri, squaglia. A otto dita la mia quarta mano, mi pare strano. Ho accelerato i miei esperimenti su DNA e negli ultimi tempi, forse ingoiando intrulli di formule maledetta me, avevo sbagliato i conti. Sono la fata dell'ingegneria genetica, costruisco mele che sanno di pere. L'acido, l'acido adesso si ribonucleico, il mio potere. E la mia faccia una piazza di De Chirico con manichini di burro. Ficherò la testa sotto la doccia, ma l'acqua scende giù a pallini di ferro. Amino acidi metropolitani come il dottor Jekyll, quasi come Dio. Mi sento anch'io. Questo è il mio orgoglio della donna che voglio ed è per questo che mi avventuro, per dimostrare a me stessa e al mondo l'ipotesi di una donna futuro. Ho accelerato i miei esperimenti su DNA e negli ultimi tempi, forse ingoiando intrulli. Adesso la frego io, Loredana Bertè. Eh sì, è proprio lei, e infatti il test di Mimmo Cavallo è praticamente la curava in questo caso Ivan Fossati, ovviamente, cofanetto, dove troverete ben 9 CD rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali contenenti 95 canzoni, di cui i primi 8 sono gli album originali, all'interno del 9 invece ci saranno inclusi dei gioielli finora nascosti, un po' come questo che poi in pochi se lo ricorderanno. Insomma, grande attesa per i fan più affezionati della nostra Loredana per l'uscita di Reloaded 74-83, etichetta Nara International, distribuito dalla Warner, un cofanetto speciale che esce proprio ora e proprio odor di strenna natalizia. Molto, eccolo. Bene, molto adesso bene. Lancio invece io la prossima, Gabriele, certo. Musa e la sua 3 AM. I pensieri si infittiscono quando la sera spazza via ogni conforto e ti fa sentire piccolo e senti solo l'acqua che scroscia in un tubo come il sangue della casa in cui ti hanno cresciuto. Sarei passato volentieri a salutarti, ma vinceva la paura di non trovarti, di non riconoscere la persona a cui ero legato, così legato al ricordo di cos'era nel passato. Ed è scontato dirti che mi sento diverso, un mondo che non regge il peso del mio universo. Quindi scusami se sono così assente, è la mia mente che ha bisogno di assestarsi nel presente. Non so più che giorno è, tutti corrono, ma che fretta c'è nella mia stanza immobile. Ogni notte mi sveglio alle 3, vorrei solo che tu fossi con me. Non so più che giorno è, la vita è strana ma non è mai stata così instabile. Il sogno è una vertigine, sono già le 3, vorrei solamente che tu fossi con me. Ieri sera sono uscito, sai, mi mancava l'aria. A volte anche la casa può sembrare una bara. Dai tombini usciva fumo, sembrava un film noir, ma mancava il fascino di Humphrey Bogart. Quando percorro queste strade ritorno ai 16 anni, qualche amico in più e molti meno drammi. La testa tra le nuvole ma non nei temporali, niente ferite al cuore, solo graffi sulle mani. Le nostre orme si sono sovrapposte per un po', ma la terra sotto i piedi a volte è instabile. E mi rattrista il pensiero che non ti rivedrò, ma il ricordo del tuo volto inalienabile. E ritorni nei fili di lana, nella trama che non hai indossato, di una storia lasciata alle spalle, solamente per sbaglio. Non so più che giorno è, tutti corrono, ma che fretta c'è nella mia stanza immobile. Ogni notte mi sveglio alle 3, vorrei solo che tu fossi con me. Non so più che giorno è, La vita è strana ma non è mai stata così stabile. Il sonno è una vertigine, sono già le tre. Vorrei solamente che tu fossi con me. Gabriele Musa, 3 a.m., che vuol dire alle 3 di notte. Più o meno questo è il senso. Sei per inglese, sì. Gabriele Musa, l'anagrafe si chiama Gabriele Rosciglione, giovane cantautore romano che però poi si autofabbrica i video e poi inizia proprio la sua carriera discografica proprio quasi per gioco, perché si autoproduceva, come dire, insomma, grazie ai social. E nel 2015, a soli 17 anni, partecipa così alla selezione Nuove Proposte per il Festival di Sanremo col nome d'arte Caligola, vincendo addirittura il premio della critica Sergio Bardotti come miglior testo dell'edizione. Quindi insomma, neanche dire che è un pivello, anzi assolutamente. C'erano molte aspettative su questo ragazzo, che in questo caso cambia praticamente stile musicale e riparte con il suo nome e cognome, appunto Gabriele Musa, con 3 a.m., che sarebbe 3 del mattino, giusto? Certo. Eccoci. E allora, ascoltato anche Gabriele Musa, ci ascoltiamo a questo punto, mi aiuti lei? Ascoltiamogli Humanoir featuring Bimbo, Guarda come dondolo. E poi ci sono io che anche quando piove merda non perdo di cantare, di credere importante tutto quello che per gli altri in fondo poi importanza non ne ha. Guidare nella pioggia il posponi della sveglia e mettere i miei occhi sopra i tuoi. Guardarti mentre dormi, spostare i tuoi capelli e chiedermi se Dio somigli veramente a noi. Se avrà la mia litosi, se ascolta quando parli o se anche lui ha dignità. E poi ci sono io che anche quando piove merda non perdo mai la voglia di cantare, di credere importante tutto quello che per gli altri in fondo poi importanza non ne ha. Humanoira featuring Bimbo, Guarda come dondolo. Io sono stato ingannato dal titolo. Lo immaginavo, non ho detto niente apposta. Mi aspettavo qualcosa d'altro, in realtà non è così, ma insomma nei nostri lavori lei insomma ha selezionato questo singolo. Trattasi io non ho selezionato niente, la sua redazione musicale fantomatica. Mi ha voluto giocare questo scherzo, ma è bello poi vedere dove c'è la musica. In questo caso gli Humanoira sono un gruppo pop, non solo, che praticamente sono in zona Livorno, se non sbaglio, quindi sono toscani, insieme a Bimbo, che è un personaggio in Toscana amatissimo come cantautorato, un po' come Vasco Rossi all'inizio, no? Era una cosa di nicchia, poi si è evoluta fino a essere un trascinatore di folle. Bene, Humanoid featuring Bimbo, fan parte di questo singolo, che anzi di questo album dove c'è questo singolo curioso che abbiamo ascoltato, e come apripista appunto del loro nuovo album. Un gruppo ironico, come dire, una canzone, soprattutto il suono è volutamente retro e ce ne siamo accorti. Bene, adatto a me. Sì, esatto, alla sua veneranda età ascolta ancora queste cose, giustamente. Certo. Adesso abbiamo Joel Saracula con Lonely Town. Un nome quasi ostico. An empty silver towers, we kill the daylight hours in the lonely town. No one really says much, just the constant chatter of machine code sound. We go about our business with the whole world there to witness such a social age. Under shiny silver surface, they're threatening to hurt us if we disengage. Che bello, un po' funk, un po' soul, anche un po' sophisticated music. Infatti questo brano lo dedico a a Simone, che adora questo tipo di musica. Certo, sophisticated music, certo. E Lonely Town, questo è un bel singolo. Lui è originario di Sydney in Australia, però vive, suona, soprattutto è un must nel clubbing londinese, quindi nelle discoteche, nei club vari, insomma suona. Ricorda anche un po' Jamiroquai, vero? Tutte queste influenze un po' anni 70, anni 90, e appunto questo pattern che c'è in sottofondo, questi suoni molto caldi, ricordano anche le Chic, no? Tutte queste, sì, sì, le queste Chic le conosco. Ecco, questi miti degli anni 70, insomma, quando c'era la vera disco music. Bene. Non c'è più. 15:53 sì. Radio Città Fujiko sui 103.1 nelle frequenze di FM di Bologna. Sì, cosa abbiamo adesso? Abbiamo Domenico Imperato e il suo nuovo singolo Bosco. Il vento soffia e mi mette addosso un'inquietudine che più non posso. Noi qui di vento ne abbiamo tanto e l'inquietudine va via cantando. Per questo forse che in questo posto più si alza il vento e più io mi conosco. Vivo cantando mentre guardo il fiume che piano muore nell'imbuto del mare. Questa città è come un palazzi come piante secolari. la mia follia di allucinazioni. Cammino e parlo con i gabbiani. C'è un sogno in tasca tra le mie due mani che sta nascosto a farmi compagnia e porta il passo dell'anima mia. Che sta nascosto a farmi compagnia e porta il tempo nella vita mia. Questa città è come un è come un bosco incontro la mia solitudine, la prendo per mano e ballo. Domenico Imperato con noi, e Bosco il suo nuovo singolo che insomma va ad aggiungersi al precedente che ha avuto un discreto successo e quindi via via insomma si parte sentimentale, l'ho fregata stavolta questa volta sì, praticamente io ero concentrato invece sul nome e cognome di chi ha realizzato la copertina del singolo, che è praticamente impreziosita dalla collaborazione con l'artista Millo, che è praticamente la figura una bambina su un'altalena. È un po' come succedeva negli anni 70-80, no? Gli artisti facevano le copertine degli artisti e quindi c'era una commissione di arte visiva con l'arte vera e propria, insomma arte musicale intendo. È tutta arte. Sì, tutta no, arte. Nel senso che c'erano questa commissione di, non lo so, chi scriveva i testi ed era un poeta. In parte e così c'è via. Ancora, meno. C'è meno, però insomma qui si tratta proprio di una ricerca. Insomma, questo quadro si chiama When the World Was Apart Upside Down, attualmente esposto nella Volley Gallery di Dubai, dove c'è una grande mostra di arte moderna e quindi andava detto, insomma, perché no? E quindi così gira l'arte, l'arte dei quadri, eccetera. Bene, bene, in bocca al lupo ovviamente a Domenico Imperato che troviamo anche nel, diciamo, nel nostro spin-off, nelle mie interviste. Dai, con lo spin-off. Certo. Ultimo brano, abbiamo un po' di corsa. Abbiamo ora Missing Cat con Calling Your Name, che dedico a un ascoltatore che ci ha scritto. Alberto, questa è tutta per te. Your game. What if I quit the night, renounced it? What if I gave it up? I am calling you out, listen up. Until you let me in, I don't know how to begin. I play the game just one more time. No holding back, waiting in line. Whoa, now let me in. Let me begin, let me begin. Oh, let me shine. I am telling you this, listen up. My brightest light became my demon. Should I shake hands with this and lose my innocence? I am telling you this, listen up. Until you let me in, I don't know how to begin. I'll play the game just one more time. No holding back, waiting in line. Whoa. Now let me in, let me begin, let me begin. Oh, let me shine. Una bella voce, un bel sound, ricorda un po' la leggerezza di Eddie Brickell o di Nelly Furtado di tanti anni fa. Lei fa nome d'arte Caterina Barbieri, però vive a Berlino dal 2007 e poi frequenta molto il jet set londinese, Berlino, quest'asse qui musicale, e praticamente ha diversi album al suo attivo. È più famosa negli Stati Uniti, in Australia, che non qui in Italia. In Europa invece sì. Ecco cosa succede nel mondo pop, appunto, musicale, oltre Manica. Ma del resto, insomma, ci si può aiutare anche con praticamente i nuovi social e trovare, insomma, artisti bravi che, insomma, devono essere maggiormente sostenuti. A questo punto invece io vado a segnalarvi solo che Kate Levine, chitarrista fondatore dei Clash e dei Public Enemy, è morto in Inghilterra proprio oggi all'età di 65 anni. Sicuramente, insomma, se ne parlerà molto nelle radio e non solo. Cosa sente in sottofondo? Sento già la sigla di congedo, pre-sigla, quindi io vi ringrazio per l'ascolto e, che dire, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre qui, stesse frequenze, stessa radio, stesso programma, ovviamente. Bene, con io me e con lei. Certo, io ringrazio Alberto che ci ha scritto, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, speriamo di aver fatto trascorrere loro un'oretta in spensierata allegria. Vi lasciamo alle trasmissioni di Radio Città Fujiko sui 103.10 e vi auguriamo una buona giornata, una buona domenica e una buona settimana. Bye bye dal Bolognese Volante e da Franco Paoletti. Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Da da da.